E dopo aver passato 4 meravigliosi giorni in quel del napoletano tra Napoli, Vico Equense e Ischia, non potevo non fare una trasmissione che parlasse di un qualcosa che ho potuto vedere e anche di un qualcosa che riguarda questa meravigliosa questo meraviglioso posto. Veramente Napoli è qualcosa di veramente eccezionale. Soltanto chi non c'è mai stato non può capire le emozioni, le vibrazioni che si possono sentire in questa città, ma non soltanto Napoli città, ma anche tutto ciò che c'è intorno, Vico Equense, Torre del Greco, che ne so, qualsiasi posto. Allora, questa sera saluto l'ospite e anche ormai amico, perché chi entra in Web Radio 11.11 entra come ospite e ne esce come amico, Luigi Braco. Ciao Luigi. Ciao Antonio, buonasera sia a te che agli ascoltatori. Allora, Luigi Braco è napoletano doc, però in questo momento per lavoro penso vive a Londra, dico bene Luigi? Sì, esattamente. Allora, se tu permetti Luigi, io ti ho pescato, diciamo, nel mondo del web, perché cercavo, che poi vedi come le cose si combinano, no? Nel senso che, come già ti ho spiegato prima, io non preparo mai nulla, tutto quello che faccio lo lascio scorrere, no? E tempo fa volevo fare una trasmissione sull'alchimia su Napoli, non so perché, e poi che succede? Che vado a Napoli. Quindi praticamente questa cosa si è preparata da sola, anzi, come dicono i veri alchemici, no? Noi non facciamo nulla, ma è già tutto predisposto, è tutto fatto, quindi noi non dobbiamo altro che assecondare. Allora, leggiamo questo curriculum di Luigi Braco. Allora, innanzitutto, Luigi Braco nasce a Napoli, giustamente, nel 1977, quindi sei anche giovane. L'amore verso la letteratura, la giurisprudenza lo spingono alla laurea in legge. Quindi durante gli anni dell'università lui approfondisce studi dell'ermetismo, della cabala, dell'alchimia, religioni antiche e moderne. E la sua passione per la conoscenza trascendentale lo spinge a incontrare i maestri di diversi ordini iniziatici, attraverso i quali lui appunto consegue la conoscenza pratica degli arcani della tradizione, eccetera, eccetera. Comunque, dopo 15 anni di queste esperienze, lui ricerca l'autore e ricerca l'autore, di, cioè l'autore che sarebbe sempre Luigi, giunge alla scoperta di libri e manoscritti inediti risalenti al XIX secolo, e quindi da qui nasce appunto la voglia di fare meditazione trascendentale e di queste antiche pratiche, dico bene Luigi? Io non voglio leggere tutto il curriculum, perché vorrei che alla fine lo spiegassi tu, la tua vera, il tuo vero cammino. Infatti la domanda che di solito io faccio ai nostri ospiti che non conosciamo, ecco, chi è Luigi Braco, come mai sei arrivato ad occuparti di questa branca, diciamo, molto misteriosa, no? Dell'alchimia, di tutte queste materie misteriose. Raccontaci un po' la tua esperienza, a come hai poi fatto questi libri. Ma vedi Antonio, è un atteggiamento mentale quello dell'ermetismo, nel senso che ci sono persone come me, e ultimamente ce ne sono davvero tante, perché il livello culturale si sta alzando molto velocemente, come anche forse quello della coscienza collettiva, e ci sono persone come me che hanno sempre voluto un contatto diretto, un approccio diretto con la religione, con il piano spirituale, privo di dogmatismi, privo di, come posso dire, di una teologia che ti racchiude, ecco, che ti confina. Per cui quando si ha questo atteggiamento si inizia a cercare, innanzitutto si legge tantissimo i classici, Eliphas Levi, René Guénon, Julius Evola, Giuliano Kremers, eccetera, eccetera, eccetera, e poi si cerca di incontrare delle persone che possono darti delle conferme, perché i maestri, diciamo, il vero maestro non insegna cosa fare, ma ti dà delle conferme. E quindi, nel mio libro, tra l'altro, nel primo libro, Alchimia di Partenope, io parlo abbastanza. Scusa Luigi, ecco, cioè, ho davanti la tua bibliografia, ecco, magari mi piacerebbe dire ai nostri ascoltatori almeno i titoli dei libri che tu hai scritto e poi magari se vuoi ce ne puoi spiegare anche qualcosa. Per esempio, dunque, hai scritto nel 2011 L'alchimia di Partenope, poi l'anno dopo La grande impostura e il vero cammino iniziatico, poi sempre quell'anno. E parlava, diciamo, della tradizione iniziatica egizio-partenopea, giusto? Sono degli articoli in Ah no, verità. Il quelli sono degli primo, articoli, L'Alchimia di vero? Partenope, è un vero e proprio libro. Quindi stiamo parlando di un librone, tra l'altro. Sono qua 256 pagine, insomma, per la Tiferet, editore. Mentre La grande impostura e il vero cammino iniziatico è un articolo che ho scritto per una rivista che si chiama Cosmos, sempre edita da Tiferet. E poi invece la tradizione egizio-partenopea, che è un po' quello di cui parleremo oggi, è un articolo che feci per Phoenix, Sì. era l'aprile 2012. Sì, conosco i direttori e insomma è una bella rivista pure questa. Poi c'è lo studio sul Graal, sempre come sulla rivista Cosmos, giusto? Poi c'è il vero Santo Graal su Phoenix e insomma, e Arcana Partenope è un libro però. Sì, Arcana Partenope è l'ultimo libro che ho pubblicato cioè è stato proprio pubblicato nel dicembre 2013 e che ho presentato al Salone Internazionale del Libro, come già feci con L'Alchimia di Partenope nel 2011, sempre per Tiferet Editore. Perfetto, e allora dai, spiegaci appunto cosa ti ha spinto, perché vedi, ci deve essere sempre un input, sì, uno studia, legge libri, no, ma poi cos'è che spinge una persona a occuparsi, che ne so, di alchimia anziché, che ne so, di chimica o di magia, no? Ci sarà un motivo scatenante che ti ha fatto, pendere da questa parte? Qual è Eh stato beh. il tuo input? Ma io, guarda, riprendendo quello che ti dicevo prima, diciamo, la prima spinta spirituale è un qualcosa che si sperimenta e che rimane nel privato di una persona e è un qualcosa che ho vissuto sin da ragazzo, insomma, da giovanissimo. E infatti io ho iniziato la mia ricerca poi nell'esoterismo quando avevo 17-18 anni, quindi prestissimo. E purtroppo in quel periodo, quindi parlo di quegli anni senza voler assolutamente parlare della realtà odierna che non conosco, ma la chiesa che io frequentavo in quel periodo era davvero un ambiente troppo chiuso, troppo bigotto, troppo ostico per una persona di ampie vedute come me, per cui era necessario in assoluto, se volevo trovare delle risposte, cercarle altrove. Beh, non ci Insomma. dici, allora, per quelli che ascoltano questa radio non ci dici nulla di nuovo, nel senso che molti, molti di noi veniamo proprio da un retaggio cattolico, religioso, e poi ci siamo resi conto che non ci bastava più quello che ci propinava, diciamo, la Chiesa, ecco, o un certo tipo di Chiesa. Quindi sei a tuo agio qui, stai a tuo agio, tranquillo. Poi. Sì, Antonio, io se permetti vorrei evidenziarti che insomma, tu hai usato le parole in modo eccellente, un certo tipo di chiesa, perché io poi nel corso della mia vita ho incontrato dei preti, insomma, anche dei monaci molto molto aperti di vedute, estremamente preparati, degli uomini davvero di grande fede. Che mi hanno dato anche delle risposte molto importanti. Quindi io ti parlavo di un momento molto preciso della mia vita, lì quando avevo 16, 15, 17 anni e non trovavo quelle risposte nell'ambito cattolico, religioso, e ho dovuto cercarle altrove. Però ti dico la verità: insomma, ci sono davvero dei preti molto illuminati anche nell'ambito della Chiesa cattolica, però è molto difficile trovarli, questa è la verità. No, no, quello è ovvio, non è che si fa, non è che tutti quanti quelli che si occupano di Chiesa cattolica sono tutti da mettere al bando. No, no, ci sono, anch'io nella mia vita ho incontrato soprattutto dei frati, ma anche dei preti che sono un po', come posso dire, un qualcosa di diverso, hanno una marcia in più, nonostante fanno parte, diciamo, del sistema del Vaticano, se parliamo di Chiesa Cattolica, sono però delle persone vere e a volte quello che conta non è tanto l'abito che indossi, ma quello che hai dentro e che porti in giro, no? Quindi l'amore che dai verso le persone, anche se hai una fede che tu magari non corrispondi come ideologia, no? Sì, condivido. Benissimo. Allora, dai, questo cominciamo proprio a parlare. Allora, io sono stato, come ti dicevo, cari ascoltatori, e lo dico anche a voi, sono stato a Napoli e ho visto delle cose che mi hanno veramente colpito. La prima cosa. Ah no, prima di parlare di quello che ho visto e quindi di farti spiegare a te qualche cosa, perché io ho visto ma non ho capito e non ho capito. No, ti volevo dire anche ai nostri ascoltatori, per chi non lo avesse visto, perché io ho scoperto Luigi Braco anche tramite un film che non è andato tanto per, diciamo, non ha avuto un grande successo perché è un film un po' di nicchia, che si intitola Vitriol. Questo film io l'ho trovato bellissimo, è un film fatto da italiani, fatto tutto sul napoletano, se non erro, vero Luigi? Sì, esattamente. Luigi, c'è lo zampino tuo anche in questo film, cioè tu che cosa, come hai partecipato in questo film? Sì, io ho partecipato innanzitutto quando lo stavamo preparando, lo stavamo scrivendo, come consulente esoterico, insomma, storico ed esoterico, se vogliamo, tra virgolette. Mentre poi successivamente, siccome mancava un attore, mi hanno chiesto anche di partecipare e quindi usare quello con la faccia oscurata, il vero ricercatore, e poi cui si sovrappone poi il livello successivo, che è quello cinematografico del film, quindi che il film è fatto su due livelli, si attendono delle scene che sono falsamente prese da un ipotetico vero documentario, ecco, fatto da due autentici ricercatori, quindi girate in modo un po' più amatoriale. Questi due è per tutelare l'identità, questa è la finzione cinematografica dei due ricercatori. Le facce, le voci sono state camuffate. Quindi, sono due ricercatori, di cui uno è una donna e un altro è un uomo. Io sono l'uomo che insomma ogni tanto si vede nelle scene, No, però. questo non ci avevo fatto caso, sinceramente, che c'eri come attore. Di questa è una cosa nuova pure per me, insomma. No, a me è piaciuto molto, sai, non è, cioè, a me è piaciuto molto perché innanzitutto tocca argomenti di cui trattiamo spesso qui in questa web radio. Quindi parla di illuminati, parla di mistero. Ma raccontaci tu, se vuoi, visto che hai partecipato anche come diciamo esperto, questo film che cosa voleva, a cosa voleva portare, diciamo, lo spettatore? Beh, Napoli è da sempre conosciuta per i suoi risvolti e la sua storia esoterica, Cuma, Pompei, la Cappella del Principe Ramondo di Sangro di San Severo, Giovan Battista della Porta, eccetera, eccetera, eccetera. E quindi si voleva gettare un po' di luce utilizzando un linguaggio cinematografico, perché comunque sì, ci sono tanti libri che sono stati scritti, storici chiaramente, su questi argomenti. Io li evidenzio più dal punto di vista esoterico, da di dentro, ma mancava un film che con la forza del linguaggio cinematografico, fatto appunto di scene, diciamo, di suoni, eccetera, eccetera, potesse ridare vita a questa realtà, ecco, di Napoli esoterica. E quindi ciò che si voleva fare è proprio portare a conoscenza del grande pubblico questa storia millenaria, perché insomma parte da Cuma, quindi dal 600-700 a.C. fino ai giorni moderni, perché noi abbiamo parlato di esoteristi napoletani, di maestri di ermetismo napoletani, come ad esempio Giustiniano Lebano, che era di Torre Annunziata, piuttosto che Giuliano Kremers, che era di Portici, e molti non sanno appunto di questi personaggi, oppure ne sanno poco. Quindi abbiamo voluto, ecco, far partecipare, con i limiti insomma del linguaggio cinematografico. Infatti tra me e il regista De Falco c'era insomma, sempre un po' un qualche, come dire, alterco, ecco, relativamente a quanto approfonditamente bisognava andare. Quindi chiaramente il film è pensato, insomma, per il grande pubblico, quindi ha i suoi limiti dal punto di vista della possibilità di approfondimento. Non è che Beh, potevamo andare a fare delle certo. lezioni di esoterismo, però abbiamo portato alla luce, insomma, parecchi personaggi e molta della storia di Napoli esoterica. Doveva essere, sì, appunto per il grande pubblico. È ovvio che alcune storie esoteriche sono un po' anche difficili poi da spiegare o da. Però diciamo che l'avventura c'è, è carino, insomma, è carino e poi è fatto a Napoli, quindi magari molti napoletani non sanno questi piccoli misteri che ci sono nella loro città, no? Quindi avete fatto un bel lavoro. Poi adesso metterò un po' di musica, però perché io voglio che tu mi racconti un po' questo Cristo velato che io sono andato a vedere e sono rimasto veramente affascinato perché tra l'altro avevo il desiderio di vederlo proprio perché l'ho visto in questo film, no? E mi ha veramente colpito la bellezza, la purezza di questa scultura. Che poi, tra l'altro, io guardando un po' su internet si dicono anche alcune cose che poi vediamo, io te le chiederò su questa, diciamo, su questa opera. Ok, allora adesso ci sentiamo un altro pezzettino di musica. E poi continuiamo. Ragazzi, innanzitutto vi saluto tutti quelli che si stanno mettendo in onda adesso. Se avete domande da fare a Luigi, lo sapete che basta farle in chat e poi gliele passo, al nostro carissimo amico Luigi. Quindi, chi ha voglia di avere qualche notizia in più rispetto, scusate, sono le zanzare che ogni tanto. E quindi approfittatene. A dopo. The journey of the soul. Let us give our prayers to those souls recently who have left this earth. And in your heart and mind, please bring in anyone you wish to call to God and ask for their merger, a call undying. Inhale. Oh, a call. Riprendiamo questa nostra serata sui misteri di Napoli. Allora, vedo già una domanda del nostro pubblico, ma intanto come prima domanda voglio dirti, ecco, questo Cristo velato, l'autore, come si chiama? Giuseppe San Martino. Giuseppe San Martino ha fatto solo questo di opera, perché mi sembra, perché è un'opera incredibile. Allora, per chi non l'avesse mai visto, il Cristo Velato è praticamente una scultura marmorea che però ha un velo, sembra che ha un velo, insomma un lenzuolo sopra questo Cristo, e che è veramente un'opera. Si dice che però, siccome questo autore era anche uno scienziato pazzo, un alchimista di quelli estremi, no Luigi? Si dice che sia addirittura un lenzuolo vero trasformato poi in marmo. C'è anche un'altra statua che mi sembra che lui l'autore, con una rete, no? Che sembra fatta tutta, cioè una rete di marmo, però raccontaci qualcosa di più su queste due opere, Luigi. Sì, il Cristo Velato, appunto, di Giuseppe San Martino è l'opera centrale di tutta la Cappella Gentilizia, insomma, del principe Raimondo di Sangro di San Severo, che si trova, insomma, dalle parti di Piazza San Domenico Maggiore a Napoli, insomma, lì è facilissimo poi trovarla, che poi è proprio a fianco a Palazzo San Severo. Ora, no, Giuseppe San Martino, che io sappia, sia chiaro, poi magari puoi dare tu anche, insomma, possiamo anche scambiarci delle opinioni al riguardo, non si occupava, ecco, di alchimia. La leggenda vuole che fosse il principe che avesse in qualche modo inventato un procedimento per marmorizzare, ecco, i tessuti in generale, e quindi che questo procedimento sia stato applicato insomma al Cristo Velato, ma in realtà poi è leggenda, insomma, in realtà è proprio un'opera scultorea di altissimo livello, insomma, che ha reso noto poi San Martino, che prima non era così conosciuto, tant'è vero che quest'opera, si dice che lo stesso Canova, insomma, ne restò folgorato e abbia tentato, insomma, di comprarla, ma inutilmente. E quindi si deve proprio alla capacità dello scultore, che è riuscito, insomma, a creare un effetto ottico eccezionale di trasparenza, di traslucidità del marmo. E questo, diciamo, è l'elemento fondamentale. Poi non sono sicuro che sia lo stesso autore anche dell'altra statua a cui tu ti riferisci, cioè il Disinganno, che è legata alla storia per cui sarebbe va a rappresentare il padre di Raimondo di Sangro di San Severo, che dopo una vita dissoluta esce, ecco, da questa rete, ecco, che in effetti il Disinganno rappresenta proprio un uomo che si toglie da addosso una rete, e quindi esce dalla rete del mondo profano, esce dalla rete degli inganni, della lussuria, insomma, eccetera eccetera, per poi abbracciare la fede, in quel tempo fede cattolica si intende, e quindi una vita molto più semplice, molto più ritirata. E riguardo poi, sempre in quella chiesa, uscendo, ci sono due sculture, chiamiamole così, dove praticamente si vede tutta la venatura del corpo umano, no? E quelli sono degli esseri umani veri e propri, no? Anche lì non si sa come, quale liquido abbia utilizzato per far sì che queste vene ancora si vedano, tutti i capillari, non so se te lo ricordi, no? Allora, si tratta di due macchine anatomiche, in effetti, che il principe fece realizzare in quanto studiavano anche l'anatomia del corpo umano, e ciò che fece, diciamo, c'è sempre la leggenda, anche in questo caso, Antonio, la leggenda vuole che siano due corpi di vere persone che attraverso un procedimento alchemico il principe è riuscito, insomma, a preservare quantomeno nella struttura interna dal tempo, e quindi è possibile vedere, appunto, tutto il sistema venoso e arterioso, gli organi, eccetera eccetera. Anzi, si sa che la donna è mancante di una parte, cioè in effetti c'era anche un feto all'interno del grembo della macchina anatomica femminile, e che insomma poi è scomparso nelle pieghe del tempo. Ora In realtà si tratta anche in questo caso di due semplici macchine anatomiche finte, quindi si tratta quindi di cera, in effetti le venature sono fili ricoperti di cera. Ciò che però è davvero straordinario, e ci sono stati degli studi al riguardo, è la precisione. Nel senso che i vasi arteriosi che sono nei pressi del cuore, ad esempio, giusto per dirne una, sono così ben rappresentati che insomma, non si riesce a capire come lo siano, in quanto la scienza ufficiale arriverà a poter disegnare in modo così perfetto quei vasi solamente 40-50 anni dopo, insomma. E so, dai, beh, ma sai com'è, Luigi? A noi ci piacciono i misteri, anche dove non ci sarebbe nulla di misterioso, no? Si devono sempre inventare leggende per rendere la cosa un po' più, diciamo, più thriller, no? Come posso dire? Comunque, vabbè, di questo ne abbiamo parlato, però noi questa sera toccheremo anche altri argomenti interessanti, ecco. Perché Napoli, diciamo, è anche la zona del napoletano, ha questo fascino esoterico e questa alchimia, diciamo, proprio del luogo. È dovuto forse al Vesuvio, è dovuto per esempio forse ai sotterranei magici. Io sono stato in questi scavi borbonici, no? Sotterranei, dove ho visto delle cose incredibili, dove c'era anticamente purtroppo i ricoveri dei bombardamenti, no? Dove ci vivevano addirittura famiglie, cioè delle cose incredibili, e dove c'è purtroppo anche lo scempio fatto da ultimamente per fare quella metropolitana leggera che si doveva fare e che non si è mai fatta, e quindi hanno distrutto anche parte di scavi settecenteschi. A cosa è dovuto allora questa energia? Raccontaci un po', e poi a cosa dobbiamo legare anche questa energia, appunto, all'Egitto, no? Agli egiziani. Cosa c'è come... Insomma, una domanda molto articolata, che presuppone domanda, una risposta articolata. Vai, hai tutto il tempo per farla. Allora, innanzitutto è la storia. Stiamo parlando di una città millenaria, che affonda le sue radici a Cuma, insomma, quindi stiamo parlando del 700 avanti Cristo all'incirca, e Cuma già di per sé è un luogo molto speciale di forze telluriche, dove insomma si realizzavano insomma le antiche iniziazioni ai misteri, dove c'era la Sibilla, appunto, che profetava sul futuro, eccetera eccetera, e quindi c'era una scuola iniziatica in effetti in quel luogo. C'è insomma tutta la via sacra che sale fino al Tempio di Apollo e poi al Tempio di Giove, ancora più su, insomma, cioè, è una vera e propria via iniziatica che parte dal grembo della terra per passare quindi ai misteri di Demetra, di Cerere, per passare attraverso la via sacra, il bosco sacro, dove venivano inscenati probabilmente i misteri stessi, forse dei misteri sulla vita, insomma, nel mondo spirituale, nel mondo dell'oltretomba. Poi si passava al Tempio di Apollo, cioè all'iniziazione solare, e poi ai misteri, insomma, di Giove, al Tempio di Giove, che è la parte sommitale dell'acropoli di Cuma, e dove avvenivano forse i misteri successivi, insomma. È davvero un luogo speciale, ancora oggi le persone sensibili possono apprezzarne un certo eco, ecco, il mistero che si respira per davvero. Vabbè, poi un luogo privilegiato da Publio Virgilio Marone, insomma, nella sua opera. Insomma, è qualcosa di speciale, come pure è speciale tutto il resto della città, con la prima migrazione dei greci che erano sbarcati sull'isolotto di Megaride, per poi andare a Paleopolis, che è l'attuale Pizzo Falcone, per poi spostarsi successivamente a Neapolis, che è l'attuale zona del centro storico, insomma. Quindi tu hai una storia antica, millenaria, dove si sono susseguiti tutti gli usi, i costumi, la tradizione e i culti dei popoli che l'hanno abitata, e quindi tu hai la tradizione etrusca con i primi cumani, di cui si dice che fossero appunto etruschi, e poi hai i culti dei greci, il culto di Cerere, i culti insomma dell'antica Grecia, e poi successivamente chiaramente i romani che hanno introdotto, che hanno adottato in fin dei conti la cultura greca e il pantheon greco, sebbene insomma poi riammodernandolo un po' a modo loro, e poi hai tutto il periodo medievale, insomma, che è ancora pieno di fascino, di mistero per tutti i periodi insomma storici che si sono susseguiti e che a Napoli sono stati particolarmente vissuti, insomma, per i vari conquistatori che abbiamo avuto. E ad esempio è molto particolare verificare che a Napoli c'è stato proprio un sincretismo, o meglio un susseguirsi di culti che forse, ecco, meglio non utilizzare questa parola sincretismo, culti che si sono forse affrontati, che hanno lottato, perché tu hai i culti appunto di, c'era il Tempio di Apollo, insomma c'erano i culti romani eccetera eccetera dell'antica Roma, ma hai anche poi il culto di Mitra, hai successivamente il cristianesimo, il primo cristianesimo, quello delle origini, che si celebrava insomma negli antri sotterranei, nelle cavità sotterranee. Scusa Luigi se ti interrompo, no, ma, proprio riguardo a questo, io nella visita che ho fatto in questi cunicoli del Settecento borbonico, no? Grazie a un amico Paolo e al suo amico speleologo, ci siamo ficcati in dei cunicoli non adibiti ai turisti, no? E siamo entrati tramite un cunicolo molto stretto, che con tutta la mia pancia ci sono riuscito a entrare lo stesso, e siamo sbucati in una cisterna squadrata, no? E al di sopra di questa cisterna ci sta il camminamento dei famosi monacielli, no? Così chiamati, e c'erano, infatti lo speleologo mi ha detto che è un caso raro, c'erano dei segni, dei graffiti da una parte con delle croci dette rinforzate, cioè erano delle croci con dei segni ai lati, no? Ecco, tu ne sai qualcosa, sembra quasi una croce ortodossa. E lui mi ha detto che è raro, ne ha incontrate pochissime di queste croci in quell'ambiente. Secondo te che cosa poteva essere? Ma sono degli studi abbastanza recenti, perché sono dei ritrovamenti abbastanza recenti, quindi non esiste ancora una letteratura nota sull'argomento. C'è chi dice insomma che siano semplicemente dei luoghi insomma per delimitare, insomma, per come una sorta di indicazione di dove si andava, perché stiamo parlando di sotterranei piuttosto ampi, insomma sono immensi. Napoli sotterraneo è un qualcosa di spettacolare, una vera e propria città nel sottosuolo, quindi in qualche modo bisognava trovare la strada anche per uscirne. E quindi in un ambito, come dire, una Napoli cattolica, dove il cattolicesimo se si è stratificato per secoli, insomma la cosa più semplice che poteva succedere è che qualcuno insomma si cercasse di indicarsi la strada facendo delle croci, in modo che si sapeva che da qui vado poi a giro a destra piuttosto che a sinistra. Altri suppongono che siano invece dei luoghi esoterici, dove addirittura c'è chi ipotizza che alcuni luoghi fossero utilizzati dai templari, che alcune croci fossero templari. Ma sì, infatti mi assomiglia molto come una croce templare, sì. Però ma sono ipotesi, no? Veramente sì, ipotesi piuttosto difficili. Sì, in quella posizione non so se ci facevano, cosa ci potevano fare, perché è un camminamento molto stretto sopra le cisterne. E la storia dei monacelli a me mi ha molto intrigato, nel senso che si è sempre sentito parlare del monacello, no? di questa presenza che a volte ci si trovava nelle case, no? E mi ha spiegato questo amico speleologo che praticamente anticamente, quindi stiamo parlando forse nel tardo medioevo, fino a quando, molte case di Napoli avevano appunto le cisterne, no? Dove si andava a prendere l'acqua con quell'anforetta particolare, e questi pozzi bisognava ogni tanto andare a controllare, a verificare se tutto era ok, e c'erano appunto questi come erano chiamati, non fontanieri, insomma erano proprio coloro che si dedicavano alla pulizia e al controllo erano chiamati monacelli perché avevano un cappuccio e spesso entravano dentro le case perché i pozzi erano dentro le case, no? E questa è la leggenda appunto del monacello che prendeva o che dava, o che entrava e si mangiava qualcosa oppure lasciava qualcosa. Tu te la ricordi questa leggenda o ci puoi dire qualcosa di più riguardo a questi monacelli? E stiamo sempre nell'ambito della leggenda, perché accanto a questa verità storica che hai appena, insomma, detto, c'è anche chi ipotizza, e qui stiamo sempre nel campo della leggenda, il fatto è che sicuramente i primi archeologi furono proprio dei monaci, insomma, perché molti degli scavi, insomma, per edificare cattedrali, chiese, eccetera, eccetera, si poi diventavano una sorta di scavo archeologico, perché Napoli è pregna, insomma, di reperti. E si dice che, appunto, i monaci avessero trovato insomma dei camminamenti, come dire, dei congiungimenti tra camere sotterranee, eccetera, eccetera, e che quindi si recassero proprio una sorta di esploratori, di speleologi antesignani, e si fossero appunto recati a verificare, insomma, queste rovine archeologiche, e quindi appunto tra i fontanieri e questi monaci che andavano a lume di candela a verificare appunto se magari una determinata camera che è stata scoperta nelle congiungente le fondamenta della propria chiesa con un'altra che invece appunto era una camera ancora da esplorare, potesse appunto custodire magari dei reperti archeologici o altro, insomma. E quindi se metti insieme queste due cose hai un po' il filo conduttore di questa leggenda. Perfetto. Allora, c'era una domanda prima di un nostro ascoltatore, Antonio Russo, che dice, una domanda sul cimitero delle Fontanelle. Ci sono stato e ho sentito una grande energia. Mi puoi dire di più? Beh, il cimitero delle Fontanelle nasce da episodi molto tristi, legati chiaramente alle varie pestilenze della città. Quindi, se non erro, siamo a partire dal 600, dal primo 600, fine 500, primo 600, insomma. Poi c'è stato il colera, ci sono state varie epidemie, quindi il numero degli scheletri nel corso dei secoli, insomma, è cresciuto sempre di più. È certamente un luogo molto speciale, un luogo mo molto particolare, forse una porta tra questo nostro mondo materiale e il mondo dell'aldilà, è un luogo di raccoglimento, è un luogo dove c'è sicuramente una certa tensione spirituale palpabile nell'aria. Ci sono tantissime leggende, c'è, insomma, fino agli anni 30, credo agli anni 40, c'era questa usanza per cui si adottavano dei teschi, di persone, insomma, di persone lì presenti, insomma, defunte, e lì si adottava, cioè si creava magari una piccola edicola, lo si ripuliva questo teschio, gli si dava un nome magari, o se già lo aveva, appunto lo si pregava nel vero e proprio senso della parola di esaudire una grazia o magari di, come dire, per una malattia, eccetera, eccetera. E credo che oggi si sia praticamente estinta questo tipo di pratica. Insomma, certamente è un luogo dove si respira davvero un'atmosfera particolare. Bene, bene, bene. Allora, intanto abbiamo esaudito, diciamo, le mie curiosità anche personali per quanto riguarda la mia visita a Napoli. Adesso possiamo anche cominciare delle discussioni un po' più verso la tua materia, appunto, degli studi che hai fatto. Ci ascoltiamo un paio di minuti di musica e poi iniziamo qualcosa di un po' più profondo, va bene? Certamente. Thank you. Siete all'ascolto di Web Radio 11.11. Questa sera stiamo parlando dei misteri di Napoli e dintorni con il nostro ospite ed amico Luigi Braco. Buon ascolto. Web Radio 11.11. Benissimo, allora caro Luigi, addentriamoci un po' in questa alchimia partenope o partenopea. Ecco, tu ci hai scritto anche un libro, ci hai scritto degli articoli. Raccontaci un po', spiegaci qualcosa un po' più dentro la materia. Innanzitutto, che cos'è per te l'alchimia e che cos'è, che cosa lega Napoli all'alchimia? Oh beh, Antonio, Napoli è stato un crocevia di alchimisti, quindi insomma alchimisti, astrologi, eccetera, eccetera. Quindi la città è fortemente legata a questo insomma argomento. E lo stesso Giovan Battista della Porta, diciamo, era un alchimista e insomma ha scritto un'opera come La magia naturale, insomma, quindi il titolo già la dice lunga. Ora, cos'è l'alchimia per me? In realtà l'alchimia è qualcosa di ortodosso, non esiste un'alchimia che differisce da persona a persona. Ci sono diversi tipi di alchimia, c'è cioè l'alchimia applicata ai metalli, che è insomma con la famosa leggenda della trasformazione del piombo in oro, per la quale insomma è diventata famosissima, ma in realtà chiaramente è un simbolismo. Poi c'è c'è l'alchimia applicata alle piante, che si chiama spagiria, che è ancora oggi utilizzata. E c'è poi l'alchimia interiore, l'alchimia applicata a se stessi. Purtroppo questa oggigiorno è un po' vittima di mistificazioni, in quanto l'alchimia spirituale non è la trasformazione di emozioni negative in emozioni positive, come tanti vanno affermando, ma l'alchimia spirituale è qualcosa di molto più profondo, perché la trasformazione di un individuo dal punto di vista fisico, con un giusto regime come dire, di alimentazione, affinché la chimica del sangue possa cambiare, facendo sì che diventi una sorta di calamita per energie spirituali, perché ciò che vuole questo tipo di alchimia è la spiritualizzazione del corpo. Poi, oltre a ciò, questo tipo di alchimia prevede anche un cambiamento della morale della persona, quindi stiamo parlando quindi di virtù del cuore, quindi fa sì che una persona coltivi le virtù del cuore, l'etica, l'amore per per la conoscenza, che appunto per noi è la sofia, no? Intesa proprio come termine, come sinonimo di conoscenza, e la trasformazione dell'animo, dello spirito di questo individuo che pratica l'alchimia, e quindi la possibilità attraverso una serie di pratiche ascetiche che possono essere anche utilizzate nel mondo moderno, perché non si tratta assolutamente di rituali di magia evocatoria, che io sinceramente come dire, valuto negativamente, ma si tratta di pratiche molto semplici, pratiche di meditazione, ad esempio, esercizi di concentrazione, di introspezione, la cosiddetta catarsi, e poi anche tentativi di contatto con il mondo spirituale, sempre attraverso delle tecniche di meditazione trascendentale. E il bello di questo tipo di alchimia spirituale è che non tocca la religione. Io nei miei libri, entrambi, sia nell'Alchimia di Partenope che in Arcana Partenope, spiego appunto i fondamenti della meditazione sirenusia, che è una forma di meditazione trascendentale, che porta a una realizzazione concreta, cioè a un contatto con il mondo spirituale, però insomma in una chiave, sempre mantenendo i piedi per terra, si intende, quindi in una chiave praticabile dall'uomo moderno. Allora, scusa Luigi, ti interrompo, ma quindi tu ci vuoi dire che esiste un'alchimia spirituale e un'alchimia pratica, giusto? Perché io per esempio ho visto che ci sono dei maestri alchemici che fanno dei riti, delle cose, che hanno i loro allievi, addirittura alcuni parlano di riti che sono segreti e che soltanto pochi possono accedere. Ecco, questo non ha nulla a che fare in realtà con l'alchimia spirituale, che è aperta a tutti, o sbaglio? Ci sono tante strade che portano a Roma, ci sono tanti ordini esoterici che ancora praticano la teurgia in senso classico, antico, medievale, per cui vogliono la trasformazione auspicano la trasformazione dello spirito umano da piombo in oro spirituale attraverso il contatto con delle entità invocate attraverso rituali di magia cerimoniale che né più delle volte non funzionano assolutamente, nel migliore dei casi è solo una perdita di tempo, e invece ci sono persone, io sono una di queste, che con molta umiltà, e chiaramente io parlo per me, sia chiaro, sono affermazioni puramente personali che non vogliono essere delle affermazioni di verità, ecco, sono semplicemente le mie riflessioni. E ci sono persone come me che invece ritengono che è possibile avere un contatto col piano spirituale anche con metodologie estremamente più semplici e forse per questo più praticabili. Pronto? Sì. Ah, no, non ti sentivo. No, dicevo, con metodologie più praticabili. No, ma infatti sono quelle che piacciono più a me. Effettivamente noi siamo per la spiritualità intesa non come un qualcosa di religioso, ma una spiritualità che porta appunto a trascendere l'io, no? a esplorare il nostro sé interiore tramite la meditazione, tramite appunto un metodo che non sia un metodo, diciamo, che faccia in qualche modo del male a se stessi, alla natura e a tutto ciò che ci circonda. Quindi l'alchimia vera e propria, come penso io, appunto della famosa trasmutazione, no, del piombo in oro, non è altro che trasmutare il buio che è dentro la nostra, diciamo, a volte il nostro animo in luce, no? Quindi il piombo è la tristezza, il piombo è l'insicurezza, è il non trovare se stessi, l'oro è la luce, è l'amore incondizionato, è l'amore verso il prossimo e verso la natura e gli animali. Così io vedo l'alchimia, diciamo in poche parole, da ignorante. No, io direi che tu hai centrato, poi potremmo rettificare ulteriormente, mettendo in evidenza che ci sono delle tappe intermedie che danno conto del cammino, che sono una sorta di parametri di valutazione, nel senso che sì, una meditazione trascendentale, ma è una parola abbastanza, come dire, vuota se non la si comprende fino in fondo. Cioè l'alchimia spirituale si può attuare con una modalità, con tante modalità, di cui quella che io preferisco in assoluto è la meditazione trascendentale. Ma cosa si intende per trascendentale? Si intende di trascendere il proprio corpo, riuscendolo a domare quindi i propri istinti, le proprie passioni, eccetera, eccetera. Trascendere le proprie emozioni, riuscendola sempre appunto a controllare, e poi trascendere anche il proprio pensiero, nel senso di scegliere in un certo senso con che nutrimenti alimentare la propria anima e il proprio intelletto, e poi magari anche attraverso degli esercizi di introspezione e insomma attraverso una metodologia che non vado qui a eviscerare, che sarebbe troppo lungo, raggiungere delle mete ben concrete. In base ai miei studi, alle mie ricerche, anche ai maestri che ho incontrato, poi tra l'altro io parlo sempre per esperienza diretta, perché io ho fatto parte di diverse fratellanze e organizzazioni, per cui ho avuto modo insomma di confrontarmi, di vedere da di dentro, e queste cose io le racconto insomma nei miei libri. Cioè per esempio in L'alchimia di Partenone, per la prima parte, poi relativa ai maestri napoletani di vari ordini e fratellanze esoteriche che ho conosciuto, i loro insegnamenti nel bene e nel male. Ci sono delle tappe quindi ben specifiche, ad esempio tutta l'opera consiste nel risveglio della coscienza, ma questa coscienza si risveglia per gradi, e bisogna avere delle mete effettivamente raggiungibili, altrimenti non si sa né da dove si viene né dove si finisce. E allora, per cui ecco, ad esempio Luigi, una prima meta, no dimmi. No, ecco caro Luigi, il motivo perché io sono stato attratto dal tuo nome e dalla tua essenza, perché tu parli appunto di risveglio di coscienza ed è quello che parliamo noi in questa radio. Volevo salutare Ciro Cioffi, a cui do il benvenuto, deve essere una persona o che ti conosce o che insomma anche lui abbastanza esperto. Lui parla di estasi sirenusiale. Sirenusia, quindi molto probabilmente anche lui conosce ciò che tu di cui tu stai parlando. Prego, scusa se ti ho interrotto, ma mi piaceva pensare questa cosa appunto del risveglio di coscienza. Sì, in effetti io conosco Ciro, insomma ci siamo incontrati più volte, abbiamo avuto delle belle discussioni insomma su questi temi. Anzi approfitto per salutarlo. Diciamo, riprendendo il discorso, c'è una metodologia, questa metodologia che io porto avanti e di cui ho eviscerato i fondamenti, perché nei miei libri io faccio delle continue comparazioni, studi comparati tra questa tecnica di meditazione trascendentale e la Kabbalah, lo yoga, l'alchimia cinese, eccetera, eccetera, anche andando a ripercorrere le vie antiche, come ad esempio la tradizione egiziana e via discorrendo. Ora, ci sono delle mete ben specifiche, per cui raggiungere quella determinata meta ti dà sicurezza e contezza del fatto che stai procedendo nel modo giusto. Quindi ad esempio la prima meta è certamente portare la coscienza nel proprio inconscio, cioè guardarsi dentro, raggiungere la capacità di vedere i propri difetti, di capire da dove nascono, del perché, e quindi di rettificarli. Con azioni concrete, quotidiane, insomma, se una persona egoista deve mettere in atto delle azioni altruiste, ad esempio, però prima di poter, molte persone sono egoiste ma non lo sanno, quindi c'è bisogno di una tecnica che in qualche modo ti permetta di guardarti dentro. Poi c'è la seconda tappa, che già è un po' più ambiziosa, cioè di portare la coscienza nel mondo onirico, nel mondo dei sogni, insomma di fare i cosiddetti sogni lucidi, che già insomma, è una tappa piuttosto importante, perché come dire, è una sorta di quasi totale risveglio della coscienza. E poi c'è il totale risveglio della coscienza, che si raggiunge attraverso delle tecniche che permettono di gettare un occhio nel mondo spirituale attraverso, come dire, ponendo il proprio corpo in una sorta di catarsi, ma non è nulla di così, insomma, difficile poi in realtà raggiungere, perché insomma sono cose sperimentate su cui sono stati fatti degli studi anche scientifici, insomma è una tradizione millenaria, non è che io abbia poi inventato nulla. In realtà ciò che io ho fatto, e fosse l'unico mio merito, è quello di aver condotto delle ricerche insomma da topo di biblioteca, possiamo dire, anche andando a scavare in archivi eccetera eccetera, per ritrovare fonti che dessero una base scientifica alle mie affermazioni, ma soprattutto che mettessero insieme gli sparsi frammenti di questa tradizione e li congiungessero attraverso un filo rosso. Quindi ciò che io ho fatto è semplicemente mettere assieme dei tasselli che già stavano là, e di dare una base scientifica attraverso una bibliografia di riferimento che il lettore può poi andare a verificare, perché poi uno dei problemi fondamentali dell'era moderna è che molti autori fanno delle affermazioni ma non le provano. E lì casca l'asino, dico, io talvolta per passare da un rigo a un altro, ero ancora studente all'università, insomma, a volte ho dovuto cercare così tante fonti e mettere assieme che ci sono voluti mesi. Per cui questo è sempre un lavoro molto importante, un qualcosa che dovrebbero abbracciare tutti gli esoteristi moderni, cioè di fondare le proprie affermazioni su autori, come dire, o testi precedenti, insomma, creando una bibliografia di riferimento, così da dare scientificità all'ermetismo e alla ricerca nel campo della tradizione iniziatica. Ma, secondo te, quanto la massoneria, intesa proprio come raggruppamento di persone che lavoravano nel segreto, ha in qualche modo rovinato oppure ampliato, non so, dimmi tu, l'alchimia, cioè c'è un nesso tra massoneria e alchimia? Guarda, esistono poche istituzioni valide in questo ambito oggigiorno. E la massoneria resta un'istituzione valida. Io lo so che esistono interi movimenti contro la massoneria per le questioni della P2, di Licio Gelli, della massoneria deviata, eccetera, eccetera, eccetera, perché si crede che sia un club di banchieri che decidono le sorti del mondo e che tutte le persone più importanti del mondo siano massoni. Ma sinceramente io conosco padri di famiglia molto modesti, impiegati, piccoli imprenditori, sì, perché no, liberi professionisti che non hanno nessun particolare potere nelle loro mani e che sono massoni. In realtà la massoneria è una vera e propria scuola iniziatica che, attraverso il proprio simbolismo, per chi è capace di decriptarlo, di decifrarlo e di applicarlo concretamente nella propria interiorità, dà delle chiavi pratiche di alchimia spirituale. La massoneria dà, come dire, dà l'opportunità al ricercatore, posta al singolo ricercatore arrivare a determinati livelli piuttosto che altri. C'è chi insomma entra in massoneria e si ferma, insomma non procede molto più in là, e c'è chi invece insomma diventa un faro, insomma. Pensiamo ad esempio ad Arturo Reghini era un massone, però ha scritto delle opere davvero illuminanti di spiritualità esoterica, diciamo. Sì, infatti io questa cosa l'avevo intuita. Esiste una massoneria deviata, chiamiamola così, che utilizza i stessi canoni, diciamo, che sono puri e che non dovrebbero portare a far del male, invece per organizzare complotti, che ne so, cose varie. Quindi, diciamo, è lo stesso discorso, che ne so, che si fa dell'anarchia. L'anarchia pura era intesa come un qualcosa di diverso che poi è stata trasformata in caos e cose varie. Quindi, diciamo, esiste ancora adesso una massoneria pura e non tendente a predominare diciamo, il potente sul meno potente? Ma ascoltami, è un po' come l'esempio di Napoli, ok? A Napoli la maggior parte delle persone sono tutte persone per bene che lavorano o cercano di trovare lavoro, dato la difficoltà di trovarlo, e che fanno del loro meglio per crescere i figli, eccetera, eccetera. E poi ci sono pochissime persone che sono dei criminali e a causa di questi pochi l'intera città chiaramente ne risente con una fama negativa. E la stessa cosa in qualsiasi organizzazione umana, che sia nel campo della politica, che sia nel campo dell'economia o che sia nel campo della massoneria, ci saranno sempre poche persone che cercheranno di trarre dei vantaggi a titolo personale, per fini economici, per fini politici, per fini di potere, eccetera, eccetera. Mentre la stragrande maggioranza delle persone che stanno in massoneria sono padri di famiglia, lo ripeto, io conosco tante persone, sono liberi professionisti, sono persone davvero comuni che hanno nel loro spirito la ricerca, della verità e la trasformazione di se stessi attraverso una metodologia di approccio al sacro, di approccio alla spiritualità diversa da quella offerta dalla religione cattolica, ma diversa non significa né che siano in contrapposizione, perché molti massoni vanno in chiesa e praticano il cattolicesimo, e non significa che non si possano integrare le due cose, nel senso che le due cose né fanno a pugni né si escludono. Quindi tu stesso sei un massone? Io sono un simpatizzante No, ma e perché una paura di dire se lo è? Perché poi viene associato alla massoneria, diciamo, cattiva. È sempre questo il discorso, no? no, ma guarda, io nei miei libri parlo apertamente di me, io mi metto in gioco in prima persona. Io sono uno di quelli che pensa che se si vuole scrivere qualcosa, se si vuole comunicare con gli altri, bisogna mettere in gioco il proprio nome e anche il proprio cognome e la propria faccia e la reputazione. Quindi io nei miei libri parlo apertamente delle fratellanze di cui ho fatto parte e ho fatto parte di una fratellanza di cui il maestro era anche 33° grado della massoneria di rito scozzese, ma non sono mai entrato in massoneria e non faccio parte della massoneria attualmente, forse per pigrizia o forse perché ho trovato la mia strada. In un certo qual senso queste istituzioni servono affinché ognuno trovi la sua strada. Se una persona crede umilmente, come nel mio caso, di aver trovato una metodologia, di averla riscoperta perché era già lì, magari non sente l'esigenza di entrare a far parte di organizzazioni, ma parlo per il momento, chissà, magari in futuro sì. No, io ti ho fatto questa domanda, è ovvio, provocatoria, perché io penso che è ora di sfatare tanti miti e leggende su tante cose. Per esempio, un'altra cosa che ultimamente finalmente è venuta alla luce come non più una cosa negativa è quella, la storia dei Templari, no? I Templari sono stati condannati, sono stati trucidati per un fatto che non hanno commesso. E oggi finalmente è venuta alla luce che tutto sommato questi Templari non erano così cattivi, così come li hanno dipinti, no? E così dobbiamo rivalutare tutte quelle cose che una certa chiesa, e io batto sempre qui su questo discorso, una certa politica ci ha dipinto come negativi, come qualcosa da cui fuggire, come qualcosa da scappare, no? Per questo è importante questa sera parlare di queste cose, perché ultimamente di questo non abbiamo mai parlato, appunto, della massoneria. Anche perché, come diceva appunto Antonio Russo, spesso si collega la massoneria adesso agli Illuminati, no? A questa nuova categoria di cattivi, tra virgolette, uscita fuori poi grazie almeno io credo, al famoso libro di Dan Brown, no? Che fu lui a tirar fuori questi illuminati e questo complottismo becero e crudele, no? Eh beh, sì, io sono uno di quelli che sostiene che non esistono questo tipo di cose, insomma, non esistono gli Illuminati, così come descritti da Dan Brown, così come ormai entrati nell'opinione comune. Non è vero, non è reale, non è realistico, insomma, che possono esserci cose simili. Certamente ci sono state delle contrapposizioni tra il mondo scientifico in piena era, come dire, nell'era oscura del cattolicesimo, quando c'era ancora l'Inquisizione, la Santa Inquisizione, poi cambiata con nome in Sant'Uffizio e oggi Congregazione per la Dottrina della Fede, c'è stata certamente una contrapposizione molto forte, perché scienziati come Galileo portavano alla luce che determinate posizioni dogmatiche non erano vere, non erano fondate, che il cosmo, la natura si reggevano su leggi completamente differenti ed erano fatte in maniera completamente differente. E quindi su questo è stato possibile poi ricamare insomma addirittura l'esistenza dell'ordine degli Illuminati, fatto da discendenti di questi scienziati che appunto sono stati trucidati o vilipesi. Ma sai, sono leggende, sono fantasie, e poi in fin dei conti bisogna pur vendere libri o film. Certo, vabbè, ma... Io credo sempre che non bisogna dare troppa credenza e neanche troppo pensare che non esiste. Cioè, c'è sempre diciamo un qualcosa in mezzo, no? Che potrebbe una mezza verità c'è sempre. E, il complottismo inteso come... Io a volte vedo veramente che vedono complotti dappertutto, anche sulle cose più stupide, più semplici, tipo che so, sui cartoni animati, quello, quell'altro. E... esiste proprio quasi una malattia del complottismo, no? E in realtà poi magari molte volte non si tratta di complotti ma di altre cose. Comunque, no, questa sera stiamo veramente parlando, stiamo andando proprio sul discorso molto serio, siamo seriosi questa sera. Comunque beh, ogni tanto bisogna anche approfondire certi argomenti. Questo a me mi fa piacere. Noi dobbiamo dare un'informazione a volte allegra, a volte goliardica, a volte parliamo di ufologia, di medicina, possiamo anche parlare di cose un po' più colte, diciamo, ecco, tra virgolette. Ma guarda, se tu mi permetti una digressione sull'argomento massoneria e templari, non so se c'è tempo, posso? Sì. Ok, io ti dico... ogni tanto collaboro con un sito amatoriale che si chiama Iniziazione Antica e sul portale di Altervista, e c'è una mia ricerca che coinvolge un personaggio storico molto interessante, uno scozzese che si chiamava Andrew Ramsay, che spero di pronunciarlo bene, perché sinceramente è un nome un po' difficile da pronunciarlo anche per me che abito a Londra. Comunque è un personaggio molto interessante, perché in effetti non solo è l'autore dei famosi viaggi di Ciro che sono stati pubblicati in modo come dire illegale in effetti per il suo tempo dal principe di San Severo, cioè da Ramondo di Sangro di San Severo, nella sua stamperia, aveva una stamperia proprio nelle fondamenta, insomma, del proprio palazzo, dove stampava, sì. Insomma, di soppiatto. E lo sai, scusa ti interrompo, mi hai fatto ricordare una cosa. Io ho visto in quei sotterranei una lastra di marmo che appunto ci ha spiegato lo speleologo che era una lastra di marmo che serviva proprio per stampare. E utilizzavano questo metodo, cioè queste lastre di marmo facevano, diciamo, ungevano con l'inchiostro e poi stampavano. Quindi adesso mi hai fatto collegare questa cosa, scusa, continua pure. No, figurati. E in effetti non è solo l'autore dei Viaggi di Ciro, un'opera molto interessante tra l'altro, ma anche di altre opere non molto conosciute in realtà in Italia. E in particolare il Ramsay ha tenuto nel 1737 un'orazione, tenendo in conto che lui era un nobile e che insomma in questa orazione ha affermato apertamente il legame tra massoneria e l'ordine dei templari. Tra l'altro io ho ritrovato alla British Library un'opera originale della Stella fiammeggiante del barone di Chudy, che era appunto un discepolo di Raimondo De Sangro, nel quale viene ulteriormente comprovato ciò, cioè la discendenza della massoneria dall'ordine templare o in modo insomma proprio storico, ma anche il collegamento tra la dottrina insegnata in ambito massonico attraverso i vari simbolismi e il catarismo. E queste due opere sono davvero molto illuminanti, perché sono storiche, perché riportano le fonti, perché sono scientifiche per come sono formulate, e permettono di gettare nuova luce insomma in quello che è stato l'iter storico attraverso il quale la tradizione iniziatica insomma è mutata nel tempo. Ecco, vedi, hai toccato un argomento che a me incuriosisce molto. Proprio il catarismo, quindi tu parli dei catari, no? questi personaggi che sono stati trucidati, uccisi, annientati, o almeno volevano annientare la Chiesa. Ecco, perché la Chiesa, adesso siamo, come ti ho detto prima della trasmissione, la trasmissione avrà tutto un suo, come posso dire, andamento che si fa da sola. Ecco, ora siamo andati a finire sui catari. Perché la Chiesa si è scatenata così violentemente contro i catari? Cosa aveva paura? Che i catari potessero in qualche modo delegittimare alla Chiesa? Per quei tempi, si intende? Certo. Parliamo della Chiesa di quei tempi. Quei tempi, sì, sì. Esatto. Allora, tieni conto che qui abbiamo diverse successioni storiche, perché abbiamo i catari, i valdesi, gli albigesi e tutta una serie di movimenti che si trovavano in quella zona della lingua d'oca, insomma. E cos'è che combatteva la Chiesa? La Chiesa combatteva chiunque e qualsiasi organizzazione che predicasse qualcosa che andava al di fuori dei dogmi imposti in quel periodo e della teologia imposta in quel periodo, per cui bastava davvero poco per essere bruciato come eretico, bastava davvero poco per essere bruciati come streghe, anche solo il sospetto di stregoneria a volte bastava. Tantissimi innocenti sono stati e donne soprattutto sono state bruciate sui roghi appunto da martiri, in fin dei conti, da innocenti, semplicemente perché magari prendi le streghe, magari erano delle donne che guarivano attraverso l'arte della erboristeria e talvolta riuscivano a ottenere delle guarigioni così prodigiose per quei tempi, per come credevano, per come era la scienza medica a quei tempi, da essere sospettati di stregoneria, da dire tu hai quasi resuscitato un morto, perché magari era semplicemente insomma invaso dalla febbre eccetera eccetera, sì, quindi sì. Si riteneva che non potesse assolutamente guarire, magari l'aveva guarito, e quella poverina invece di essere insomma quasi idolatrata per questo beneficio magari veniva messa a rogo, perché si diceva tu l'hai potuto fare solo perché con la potenza del demonio, perché è impossibile. E per i catari, i valdesi, gli abigesi eccetera eccetera è un po' diverso il discorso. Lì c'erano proprio la volontà di fondare delle chiese con un atteggiamento totalmente diverso, molto più aperto. Ad esempio non c'erano tutti i dogmi professati della Chiesa di quel tempo, la teologia era veramente ai minimi, si voleva un rapporto diretto con la divinità, si metteva in discussione il potere temporale del Papa, si professava una Chiesa povera, libera, itinerante, per esempio i perfetti, che era la massima, diciamo, il massimo ruolo spirituale nell'ambito della comunità catara, erano itineranti, erano poveri, e l'unico motivo per cui lo vivevano era di professare appunto il cristianesimo primitivo, quello della prima chiesa, insomma la chiesa delle origini. Come dice Ciro, professavano la gnosi. Professavano un cristianesimo certamente illuminato dalla ragione e quindi molto più vicino alla visione gnostica, certamente sì. Benissimo. E poi avevano anche dei sacramenti molto ridotti, adesso non lo ricordo esattamente, ma non avevano tutti i sacramenti della Chiesa Cattolica e non li riconoscevano, e già questo a quei tempi bastava ed avanzava per essere additati come eretici e quindi perseguitati fino al rogo e al martirio. Comunque, adesso ci ascoltiamo un piccolo brano, però tu hai detto prima la chiesa di quei tempi, ma perché? Che differenza c'è tra la chiesa di quei tempi alle chiese di oggi? Per me non c'è nessuna differenza, o quasi. Certo, no. Oggi non possono mettere a rogo e non possono annientare interi popoli, però diciamo che hanno lo stesso potere di poter far tacere, diciamo, la nuova era, con metodi un po' più subdoli, metodi un po' più difficili da capire. Almeno io la penso così. Antonio, io dissento da questo, dissento fortemente. La chiesa di oggi è una chiesa molto più illuminata ed aperta. È una chiesa, ti ho detto, fatta di tante diverse realtà. C'è il prete bigotto con cui non è possibile parlare perché, insomma, ormai ha abbracciato una determinata visione della vita, della religione, della spiritualità, e non è possibile certamente aspettarsi di poter discutere di ermetismo con una persona di tal genere, ma ci sono anche tantissimi altri preti ecclesiastici, insomma, illuminati. Luigi, tu sei un romantico, tu vedi la chiesa di pochi preti bravi. Io ti dico che secondo me la chiesa non è fatta di pochi preti e pochi no, preti io ti dico bravi, che sono tanti, ma di molti, prelati potenti che fanno tutt'altro piuttosto che avvicina. Questo è un mio parere, non è che voglio assolutamente. Antonio, ritorniamo al discorso di prima. Dovunque ci sia un'organizzazione di persone nell'ambito politico, nell'ambito economico, nell'ambito della massoneria o qualsiasi ambito, ci sarà sempre un insieme di persone che devono dalla giusta strada. E così anche nel cattolicesimo, ma ugualmente al discorso di prima, non si può, per il rumore di pochi, dimenticare le migliaia di persone che di missionari, insomma, che nel terzo mondo, mentre noi stiamo parlando, come in Africa, insomma, è di poco tempo fa la notizia di 3 suore trucidate da estremisti, non ricordo esattamente in che paese dell'Africa, solo perché avevano messo su una missione per spamare le persone. Tanto, insomma, tanto ci sono di cappello per queste persone che danno la vita, per carità. I missionari sono una cosa, secondo me, che non ha nulla a che vedere con quello che è il potere della Chiesa, del Vaticano, dei cardinali, dei papi, eccetera, eccetera. Comunque, questo è un altro argomento che questa sera non dovevamo toccare, nel senso, è uscito fuori così e l'abbiamo detto. Adesso ci ascoltiamo un brano e poi torniamo, abbiamo ancora, se vuoi, altri 10 minuti. Mi piacerebbe tornare un po' sui nostri passi, sul vero tema di questa sera, sui misteri di Napoli. Mi piacerebbe domandarti, certo, se tu ci puoi raccontare qualche aneddoto o qualche mistero che riguarda appunto Napoli, legato all'alchimia e appunto alla scuola egiziana. Sì, certamente. Ti riporto un po' sul tema, certo. Però non ti preoccupare, a me piace spaziare, nel senso, noi, le nostre trasmissioni hanno un titolo, perché bisogna pur mettere un titolo, no? Se no, che ci mettiamo? Però poi si può parlare di qualsiasi cosa, perché vuol dire che l'onda del nostro pensiero ci ha portato a quello, quindi non siamo mai fuori tema qui, insomma, ecco. Guarda, okay. Se tu me lo permetti, subito dopo la pausa io ti parlerò, ti accennerò per come si può fare in 10 minuti del misterioso ordine Osirideo Egizio. Bellissimo. Che tra l'altro è citato anche nel film Vitriol. Ah, quello mi piace tantissimo, infatti è quello che. E poi magari puoi anche dire ai nostri ascoltatori, se vogliono acquistare i tuoi libri, come, dove possono acquistarli, insomma, cosa, se hai un profilo, un sito, ok? Certamente. Benissimo, adesso ci ascoltiamo Snatan Kaur con Ramadasa, è un mantra che a me mi piace mettere, anche se questa sera magari avrei voluto mettere un altro tipo di musica, ma questa sera è uscita fuori questa e mettiamo questa. Ramadasa Bene, bene, bene. E allora, diciamo che concludiamo in bellezza con l'argomento con cui dovevamo iniziare e chiudere, appunto, quello dei misteri e di tante cose che Napoli racchiude nella sua bellezza. E Napoli non ha soltanto il sole, la pizza e le sfogliatelle. Napoli ha anche tantissimi misteri, tantissimo esoterismo, tantissima energia. Un'energia che scaturisce, appunto, come dice Luigi, dai millenni, no? Una storia antichissima, ancora prima dei romani, che poi sono venuti a egemonizzare un po' le energie. Vai, Luigi, a te la parola e facci felici. Beh, cercherò di sintetizzare il più possibile per toccare quanti più argomenti si può. Allora, tieni conto di una cosa. Tu mi chiedevi, appunto, della tradizione egizia. È chiaro che nel bacino del Mediterraneo, per una questione proprio di distanze fisiche e insomma culturali anche, insomma, non poteva non avvenire un'osmosi tra i concetti, la teologia e la religione egiziana e quella greca e poi successivamente romana, perché esistevano traffici commerciali, perché esistevano studiosi, insomma, che si recavano in quei paesi per capirne la cultura, per capirne come dire, la religione e per portare magari in patria conoscenze scientifiche e non solo. Allora è così, tramite questa osmosi culturale e commerciale, che a Napoli sono approdati gli alessandrini, cioè quella zona che oggi è conosciuta come il Corpo di Napoli, dove c'è appunto la statua del Nilo, lo sappiamo da fonti storiche, esisteva una comunità di commercianti di origine alessandrini, insomma, quindi vuol dire di Alessandria d'Egitto. Ora, Alessandria d'Egitto è certamente una terra speciale, non solo per la famosa, per il faro di Alessandria, eccetera, eccetera, ma soprattutto perché lì si è venuto a creare un sincretismo religioso tra paganesimo di stampo greco e chiaramente la religione egiziana. Ora, quindi, è un po' la terra mitica da cui sono partiti, ecco, i sacerdoti che poi, secondo la tradizione, che poi hanno appunto portato la conoscenza egizia a quei tempi, dovremmo essere intorno al primo secolo avanti Cristo o secondo secolo avanti Cristo, l'hanno portata appunto in, io parlo esattamente dell'Italia, poi chiaramente in altre zone magari anche prima, ma in particolare dell'Italia parlo di Napoli. Ora, quindi non abbiamo tante testimonianze, cioè c'è poco da pensarci, perché noi a Pompei abbiamo il Tempio di Iside accanto a quello di Apollo. Insomma, se non è questo sincretismo religioso, non so davvero cosa possa esserlo, che tu hai il Tempio di una divinità egiziana a fianco a quello di una divinità pagana di stampo romano, insomma. Ora, è chiaro che quindi in una terra come quella campana non poteva non sopravvivere questo retaggio storico, ed è sopravvissuto malgrado il periodo buio del Medioevo, malgrado la persecuzione storica e malgrado anche l'illuminismo. Molti lo sottovalutano, ma l'illuminismo è stato uno dei più grandi avversari di qualsiasi forma di spiritualità, almeno alla sua origine, quando insomma era spinto ai limiti. E certamente ha avuto anche il risvolto positivo di aver creato gli stati laici, insomma, però insomma non addentriamoci in questo fatto. Ora, quindi è sopravvissuta questa tradizione, quindi, di un approccio alla spiritualità e al mondo spirituale attraverso una metodologia ermetica attraverso appunto una metodologia che prevede un approccio diretto, una sperimentazione diretta del mondo spirituale, è potuto sopravvivere attraverso i mutamenti che questa tradizione ha avuto nel corso dei secoli. Una volta insomma si è rifugiata nel catarismo, un'altra volta si è rifugiata nel templarismo, un'altra volta si è rifugiata nella massoneria. Sono tutte facciate di un'unica di un'unica tradizione che ha camminato lungo i secoli. La stessa alchimia, la trasformazione del piombo in oro, è una metafora di questa conoscenza segreta che non poteva essere appunto apertamente condivisa per i dogmatismi del tempo, altrimenti si rischiava insomma l'inquisizione, per cui era necessario adottare un codice criptato di comunicazione, e questo codice criptato di comunicazione è stato anche appunto il linguaggio degli alchimisti. Infatti è uno dei linguaggi forse più difficili da da decriptare, ma lo è stato anche ad esempio per i costruttori delle cattedrali, no? Abbiamo Fulcanelli che ci ha illuminato su questi elementi. Le stesse cattedrali gotiche sono dei codici, sono un linguaggio da interpretare per decodificare un approccio al sacro, forse più mistico che teologico in senso stretto. Insomma, abbiamo avuto dei mutamenti di questa tradizione. La stessa cosa è successa a Napoli. A Napoli abbiamo avuto tantissimi astrologi come Michele Scoto, giusto per citarne uno più famoso, che era la corte di Federico II. Abbiamo avuto la scuola medica salernitana. La scuola medica salernitana in realtà è un retaggio insomma di sapienti che hanno indagato i misteri della scienza di quel tempo, ma anche del ermetismo, anche dell'astrologia. Io vi dico una chicca, cioè nell'abbazia di Monte Cassino, come pure nell'abbazia di Cava dei Tirreni, sono custoditi dei manoscritti molto interessanti su un approccio, come dire, ermetico, ecco, di vera e propria tradizione iniziatica al mondo spirituale, a modalità quindi di accesso a esperienze spirituali. Attraverso, chiaramente, sono dei codici molto difficili da decriptare, perché insomma sono in latino o scritti in diverse lingue, come spagnolo antico, eccetera eccetera, quindi non è che sia semplicissimo. Io al riguardo vi posso dare un'altra perla, e cioè che in effetti c'è stato uno studioso, un ricercatore con un curriculum di tutto rispetto, però siamo verso la fine del 1700, che era il Visconte di La Paz, il quale ha scritto un trattato sulla conservazione della vita, quindi sulle metodologie per conservare la vita e preservare la giovinezza, cosiddetto elisir di lunga vita. Ecco, questi sono in realtà dei nomi in codice per dei preparati chimici, dei preparati medicamentali, che questo Visconte ha una storia estremamente interessante, perché è stato a Napoli, è stato all'abbazia di Cava dei Tirreni, è stato a Monte Cassino proprio ad analizzare questi testi, in quanto lui era discepolo del conte Barbiani di Palermo, che a sua volta era discepolo di Cagliostro. Ed infatti il La Paz, nella sua opera, che tra l'altro è su Google Libri, basta visitare il sito Iniziazione Antica, c'è tutta la storia, c'è tutta la mia ricerca a proposito, nel suo trattato, tra le altre cose, che è un trattato molto interessante, che parla di religione, di spiritualità, mette a confronto i diversi sistemi religiosi, le varie filosofie del tempo e i grandi filosofi del tempo, e poi passa proprio all'analisi delle modalità per preservare la vita e la giovinezza nel tempo, lui riporta diverse ricette molto interessanti, tra cui quella dell'oro potabile secondo la ricetta di Cagliostro, che era stata ereditata appunto dal conte di Barbiani. Insomma, e lui è stato proprio a Napoli a studiare queste cose. Quindi esiste tutto un sottobosco di ricercatori, di personaggi aristocratici, di gente semplice, che si è dedicata a questi studi nel corso dei secoli, e che ha creato quello che potremmo definire una tradizione egizia, Osirideo egizia, c'è una tradizione improntata metaforicamente, ma anche realisticamente, possiamo dire più che improntata, possiamo dire storicamente ancorata al mito di Iside e di Osiride, di cui tra l'altro affrescato, appunto, tra l'altro ci sono degli affreschi bellissimi al Museo Archeologico Nazionale provenienti dal Tempio di Pompei, da Tempio di Iside di Pompei, sul mito di Osiride, e che appunto infatti storicamente approcciano là. Poi hanno avuto uno svolgimento nelle varie epoche storiche e poi hanno avuto un apice, un'apoteosi. L'apoteosi è stata l'Ordine Osirideo Egizio, in realtà il nome proprio preciso è Grande Oriente Egiziano, che ha avuto proprio un luogo fisico e dei personaggi storici che sono stati in quel tempo, certamente Raimondo di Sangro, certamente Cagliostro, ma anche i personaggi meno noti e più vicini al nostro tempo, come Giustiniano Lebano, che aveva proprio nella sua villa a Torre Annunziata sede, cioè era proprio la sede del Grande Oriente Egizio, dell'Ordine Osirideo Egizio, se si vuole utilizzare quest'altro nome, e erano in un cenacolo di iniziati che praticavano concretamente l'alchimia, anche appunto utilizzando dei preparati spaggirici, i cui nomi in codici sono elisir di lunga vita, oro potabile, ma sono dei preparati medicamentali, i quali vanno, come dire, a propiziare, ad aiutare quella che è la spiritualizzazione del corpo. Tieni conto che queste persone si sottoponevano a una vera e propria prassi, una vera e propria vita concreta, insomma, un regime di alimentazione molto parco, basato appunto sul vegetarianesimo, quindi in qualche modo gente che mangiava davvero pochissimo, perché loro ritenevano che il primo atanor nel corpo umano sia lo stomaco, per cui volevano il primo canale, ecco, il primo elemento, il primo sì, atanor, crogiolo che permette le prime trasformazioni proprio concrete, sia proprio lo stomaco. E loro, infatti, in alchimia, tra l'altro, ci sono anche nelle opere classiche, ci sono continui riferimenti allo stomaco come atanor centrale per le prime trasformazioni. Infatti, Luigi, sì, Luigi, ti volevo domandare proprio questo, e ne avevo timore, se diciamo il vegetarianesimo, il veganesimo è lontano dall'idea, diciamo, di questi alchimisti o di questi, insomma, alchimisti spirituali. In realtà invece mi dici che anche loro, magari non per motivi etici ma per un altro motivo, erano o sono vegani. Loro erano profondamente convinti che il sangue umano fosse una calamita per energie spirituali e per entità spirituali. Il sangue è stato sempre al centro di tutti i rituali più importanti, li abbiamo persino nell'Eneide. Ora, la questione, oppure nella Bibbia, insomma, i sacrifici sono sempre sacrifici di sangue, nel mondo classico, insomma. Ora, loro ritenevano che, quindi parlo per quel sistema ottocentesco, ritenevano che appunto il sangue dovesse assumere un certo pH, una certa conformazione, per poter diventare calamita di queste energie sottili, e quindi il primo canale per poter cambiare il pH del sangue e la sua composizione è certamente lo stomaco, certamente l'alimentazione, e loro osservarono l'alimentazione vegetariana. Oh, allora mi piacciono. Io non sono vegetariano, però, perché io credo profondamente che nel corso dei tempi magari sia ugualmente possibile, insomma, raggiungere determinate mete spirituali anche non essendo vegetariani, o magari non essendolo completamente. Cioè, io non sono uno di quelli che mangia carne rossa tutti i giorni, credo molto nella, appunto, insomma, sì, nel sistema vegetariano, ma anche integrandolo con delle carni bianche, insomma, una sorta di via di mezzo, ecco, per così dire. Vabbè, glissiamo su questo argomento. Va bene, allora, sono 103 minuti e 58 secondi, abbiamo veramente fatto un bel excursus su tanti temi che riguardano appunto l'alchimia, che riguardano cose interessanti. Io che devo dirti, caro Luigi, qui da noi sono in questo momento le 23:13, dalle parti tue, mi sa che siamo un'ora indietro, no? Sì, sono 22:13. Bene, io ti ringrazio per la tua disponibilità. Naturalmente ci risentiremo magari per approfondire altri argomenti, appunto, di cui tu sei abbastanza esperto. Quindi finiamo qui questa bellissima serata, questa volta molto, anche questa da riascoltare, perché sai, molti dei nostri ascoltatori, magari c'è una chat qui parallela, si distraggono e poi con calma si riascoltano tutti i concetti che hai enunciato più di una volta, perché alcuni concetti sono un po' da, per chi non è addetto, diciamo, ai lavori, da risentirli un po', e poi magari. E questo è lo scopo della nostra radio, approfondire magari acquistando dei libri o andandosi ad informare un po' di più. Quindi abbiamo scoperto una Napoli veramente diversa, una Napoli un po' più misteriosa. Casomai la prossima volta, se faremo un'altra trasmissione su queste tematiche, possiamo anche far venire a parlare anche Ciro Cioffi, che mi sembra che deve essere uno abbastanza dentro la cosa. Tu che dici, Luigi? Ma certo, perché no, è Ciro un amico ed è uno studioso serio di questi argomenti, ma ci sono tanti studiosi seri di questi argomenti. Noi stiamo vivendo un vero e proprio revival, la gente vuole un approccio diverso alla spiritualità o si fa delle domande che prima non si faceva o vede magari che o chiede delle risposte attraverso delle metodologie diverse magari da quelle delle religioni classiche, non togliendo assolutamente il valore delle religioni classiche, perché le religioni sono strade maestre verso la spiritualità attraverso la perpetuazione dei sacramenti, in cui io stesso, tra l'altro, credo. Anzi, io non togliamo la parola credo, io sono cosciente che questi sacramenti che ancora vengono perpetuati dalle religioni dominanti, qualsiasi se sia, perché tutte le religioni sono sacri e sacre e tutte le religioni sono sante. E, io credo, ho consapevolezza che questi sacramenti sono ancora vivi e vitali, sono delle vere e proprie porte verso l'elevazione spirituale di se stessi e il contatto con il mondo spirituale, con Dio. Ma alcune persone hanno un atteggiamento mentale diverso e vogliono delle strade che rispondano a una mente analitica, priva di dogmi, che non accetta, ecco, i dogmi, che non accetta determinati confini teologici. E proprio forse questo è il senso dell'esistenza della via dell'ermetismo e del perché sta diventando così attuale. Ora, Antonio, nel salutare te e i nostri ascoltatori, tu mi hai fatto anche un'altra domanda prima, cioè come possono avere informazioni su di me, se ho un profilo, eccetera, Sì, eccetera. esatto. Allora, innanzitutto io ho un sito internet che è Luigi Braco, quindi mio nome e cognome, Luigi Braco con una sola C.altervista.org, sul quale ci sono insomma tutti i miei curriculum, le opere che ho scritto, eccetera, eccetera. Ho un profilo Facebook, ho un account Twitter, quindi insomma sono abbastanza reperibile, come le mie opere sono reperibili in tutte le librerie, insomma, o i rivenditori online. Perfetto, perfetto. Data anche questa informazione, questa sera, ripeto, la nostra radio è una radio aperta a 360 gradi, non è una radio settaria che invita solo le persone che la pensano solo come noi, ma invita tutte le persone che possono dare un contributo al risveglio, che può provenire da tanti, tanti fattori. Noi possiamo, e sicuramente lo farò, posso anche intervistare un prete o un frate e magari ci dice la sua e ci fa conoscere altre, diciamo, verità che possono arricchirci. Ognuno ha dentro di sé la propria verità che può arricchire il nostro animo. Quindi non dobbiamo per forza, per via di cose, essere settari nel nostro modo di pensare. Se a me non piace la Chiesa Cattolica, non invito nessuno che parli bene della Chiesa Cattolica, è un'assurdità. Dobbiamo invece essere aperti a tante, ideologie e poi farci con discernimento il nostro proprio credo e la nostra propria fede. La nostra fede deve essere quella di un'umanità più buona, un'umanità che sia aperta all'amore, ed è quello, secondo me, il segreto della la vera alchimia. L'alchimia è l'amore, e l'amore quando entra distrugge le guerre, distrugge la fame, distrugge l'odio. Che ne pensi? Ma guarda, sono completamente d'accordo, tanto è vero che amore, secondo il cammino iniziatico, secondo la filosofia ermetica, è quella forza che permette che due divengano una sola cosa, e quindi le due parti di se stessi, il mondo cosciente, il mondo incosciente, il mondo da svegli, il mondo onirico, il mondo da vivi, il mondo della morte, si integra grazie a una forza unica che li possa appunto amalgamare, che è l'amore. Come pure poi, realizzate queste tappe, ciò che si vuole alla fine è sempre la stessa cosa, sia che si segue un cammino di fede, sia che si segue un cammino iniziatico, cioè incontrare Dio, avere consapevolezza del piano spirituale, conoscere se stessi e gli dèi, come era scritto sul Tempio di Apollo. Benissimo, allora Luigi Bracco, grazie. Che tempo fa a Londra, a London? Stamattina era una gran bella giornata, domani si prevede temporale. Ah, non ti ho chiesto cosa fai a Londra, tu lavori a Londra, vivi a Londra per motivi di lavoro, cioè vivi proprio lì o fai avanti e indietro? Sì, sì, sono venuto a Londra circa 3 anni, da 3 anni e mezzo, sì, 3 anni e mezzo che ci vivo. Chiaramente per viverci bisogna lavorare, perché è una città estremamente costosa. Vivo con la mia compagna e io mi occupo di marketing, quindi sono un account manager e mi occupo, diciamo, prendo cura di portafogli di clienti per grosse società tipo Microsoft, Hewlett Packard, okay, eccetera. No, l'importante, siccome tu sei napoletano, attenzione a prenderti troppo cura dei portafogli, perché poi sono i soliti napoletani. No, comunque, a parte la battuta scontata, no? Dico, ti manca Napoli, quindi un po' ogni tanto, no? Ci pensi alla tua città? Mi manca tantissimo la Napoli, la tradizione, mi manca tantissimo la cultura partenopea, il centro, diciamo, la storia, i luoghi storici, mi manca tantissimo la cultura, la mia famiglia, i miei amici, ma malgrado questa nostalgia che vivo praticamente ogni singolo giorno e che non mi abbandona mai, d'altro canto, quando si approda in una città come Londra, che ti permette davvero di, come dire, vedere cos'è il progresso, cos'è la meritocrazia, cos'è la possibilità di crearsi una carriera, di perdere un lavoro e trovarne un altro, una città dove tutto funziona benissimo, dalla sanità a qualsiasi altra cosa, insomma, sai, alla fine, per quanto mi riguarda, ho preferito restarci. Va benissimo, no, era solo per chiarire qualche cosa, così per farti conoscere ancora di più dai nostri ascoltatori. Ok, certo. Benissimo, ti ringrazio Luigi, veramente adesso chiudiamo sul serio. Ricordo ai nostri ascoltatori che domani, penso che domani, siccome questa settimana non ho potuto preparare il palinsesto, essendo stato appunto in una mini vacanza, domani credo che faremo proprio una trasmissione e parleremo appunto di veganesimo, vegetarianesimo, parleremo il perché dobbiamo in qualche modo diventare almeno vegetariani, il nostro modo di pensare perché dobbiamo diventare vegetariani, che è qualcosa che è importantissimo per questa nostra evoluzione epocale. Un abbraccio di luce a tutti e ci sentiamo domani. Quindi adesso vi metto un altro brano di musica e poi buongiorno se giorno a chi ci sta ascoltando di giorno e buonasera se sera. Ciao Luigi. Arrivederci a tutti.